Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro decimo, versi 1-242. Celebrate con Venere e Giunone le nozze di Ifide e Iante, il dio Imeneo vola via da Creta. Di lì, nel suo mantello color zafferano, Imeneo, tracciando l'immensa volta del cielo, punta il paese dei Ciconi, dove lo invoca invano la voce di Orfeo. Arriva, d'accordo, ma senza portare con sé né le formule di rito, né un bel sorriso, e neanche buoni presagi. La torcia che ha in mano non fa che friggere un fumo che fa piangere, ma per quanto lui la scuota, non caccia una fiamma. Cattivo il presagio, ma il peggio doveva venire. La sposa novella, correndo sui prati con una corte di naiadi, un serpente la morde al tallone, e lei muore, la sposa novella. Dopo averla pianta abbastanza sotto il cielo, il poeta del Rodope, per non rinunciare nemmeno al mondo dei morti, si azzarda a calarsi fino allo Stige per il traforo del Tenaro. Traversata una labile folla di fantasmi, di gente sepolta, si presenta davanti a Persefone e al signore del sordido regno delle ombre. Tenta le corde, accorda la cetra alla voce e canta così. Santi numi, che abitate qui sottoterra, dove senza scelta noi tutti mortali verremo a finire. Se posso permettermi dirvi la verità, senza tanti sotterfugi retorici, beh, non sono sceso qua giù per dare un'occhiata al Tartaro e tantomeno per mettere a catena i tre colli villosi di serpi di Cerbero il mostro. La ragione del viaggio è mia moglie, che ha pestato una vipera e quella le ha iniettato veleno, mozzandole una vita che stava sbocciando. Me la volevo cavare da solo e ho tentato, non nego, ma ha vinto Amore, che è un dio lassù da noi famosissimo. Non so se anche qui sotto, ma mi auguro proprio di sì, se non è inventata la favola di un ratto del tempo che fu. Amore ha congiunto anche voi per questi posti tremendi, l'immenso vuoto e i silenzi del regno d'abisso. Vi supplico, ritessete le fila strappate del destino di lei, di Euridice. A voi tutto dobbiamo, e dopo una minima dilazione, più presto che tardi, tutti piombiamo in un unico posto. Finiremo tutti qua giù. Questo è l'estremo soggiorno dove sul genere umano regnerete in perpetuo voi due. Lei stessa, una volta compiuti gli anni giusti per lei, sarà di vostra spettanza. Non vi chiedo un regalo, ma un prestito. Se poi questa grazia il destino me la nega, io, state certi, di qui non mi muovo. Potrete godervi un raddoppio di morte. Mentre lui dice così, pizzicando le corde, singhiozzano le anime esangui. Tantalo si disinteressa dell'acqua che gli sfugge. La ruota di Sione si imbambola. Gli avvoltoi smettono di rovistare nel fegato. Mollan le brocche, le nipoti di Belo. E tu, Sisifo, ti sei messo a sedere sul sasso. Per la prima volta le Eumenidi, turbate dal canto, si dice bagnassero il viso di lacrime. Né la consorte del re, né lo stesso re degli abissi resistono a quella preghiera. Convocano Euridice e, fra le ombre nuove arrivate, eccola farsi avanti, zoppicando per la ferita. Se la riprende l'eroe del Rodope, a patto di non voltare indietro la testa, fin tanto non fosse uscito dalle bolge d'Averno, altrimenti il premio sarebbe sfumato. Si avventurano per un viottolo in salita, scosceso, abbuiato da un nebbione compatto, dentro un silenzio muto. E sono lì lì per raggiungere la superficie che lui, nel timore di averla perduta e smanioso di rivederla, per amore si gira. E lei gli scivola subito via e tende le braccia per aggrapparglisi e farlo aggrappare, senza stringere altro, poverina, che l'aria fugace. Ma morendo di nuovo, lei non si lagna di suo marito. Di cosa potrebbe lagnarsi se non di essere amata? E datogli un ultimo addio che gli orecchi di lui percepiscono appena appena, ripiomba in fondo all'abisso di prima. Alla seconda morte della moglie impietrisce Orfeo, come quello che vide i tre colli del cane di Stige, il collo di mezzo in catene, e non gli passò la paura finché non cambiò di natura, diventando tutto di sasso, o come il celebre Oleno che si addossò tutte le colpe di sua moglie, o sua moglie, Letea, spavalda dalla bellezza, inseparabili un tempo, ora umide rocce dell'Ida. Scongiura il barcaiolo di traghettarlo di nuovo, ma quello lo caccia, e lui resta lo stesso per 7 giorni accucciato in riva, senza mangiarsi un pezzo di pane. Non si ciba che di dolore e di lacrime, ma alla buon'ora, maledetti gli dei spietati dell'Erebo, riguadagna le cime del Rodope e l'Emo battuto dai venti del nord. Per la terza volta il sole ha chiuso il giro dell'anno nel segno dei pesci e per tutto questo tempo Orfeo non ha mai toccato una donna, chissà se per quello che aveva patito o per voto fatto, con tutto che in molte aspirassero darsi al poeta e soffrissero in molte di vedersi respinte. E fu lui, fu proprio lui che addestrò le genti di Tracia a stornare l'amore sui piccoli maschi e a cogliere i primi boccioli della stagione brevissima che precede la giovinezza. C'era un colle e c'era sul colle un'ampia e piatta radura colorata di verde dall'erba d'un prato. Non c'era l'ombra di un'ombra. Appena il poeta figlio del Dio si accovaccia lì nel mezzo e toccando le corde accorda la lira, d'incanto l'ombra arriva, è arrivata la quercia d'Epiro, il pioppo delle povere Eliadi, il rovere che svetta per aria. Arrivano i soffici tigli e il faggio e arriva il nubile alloro, il nocciolo fragile, il frassino buono per fare le lance, l'abete senza un nodo e il leccio oberato di ghiande, il fastosissimo platano, l'acero multicolore e il salice, quello di fiume, insieme al loto di stagno, il bosso verde in perpetuo con l'esile tamerice, il mirto di 2 colori, la lentaggine azzurra di bacche. E non arrivi anche tu, con le tue radici contorte, edera, e viti e olmi di viticci di vite vestiti, e orni e pinastri stracarichi di frutti rossicci, e corbezzoli arrivano e duttili palme, serti per vincitori, e tu, pettinato all'insù, e arruffato nel ciuffo, pino, caro a Cibele, madre degli dèi, com'è vero che Atti si spogliò delle forme di uomo per irrigidirsi in quel tronco. Nella calca c'è anche il cipresso, che ricorda la meta del circo, ora albero, un tempo però giovinetto, adorato dal dio che padroneggia le corde della lira e la corda dell'arco. Sacro alle ninfe che vivono nelle campagne di Cos, c'era un enorme cervo che portava in testa 2 corna spropositate, al punto di farsi ombra da sé. ed erano d'oro e splendevano, e gli pendevano dal collo tornito, sul petto collane tempestate di gemme. Sulla fronte, fermata a un laccetto, gli ciondolava una bolla d'argento, e appese alle orecchie gli sprizzavano luce contro le tempie due perle che aveva da quando era nato. E quello, la timidezza naturale messa da parte, frequentava senza paura qualsiasi casa, prestando il collo da carezzare a tutti, anche a chi non conosce. Però più bene di te nessuno gliene voleva, Ciparisso, il più bello di Cos. Gli trovavi un pascolo nuovo ogni giorno, lo accompagnavi alle acque di fonte più limpide, e c'era la volta che gli intrecciavi fiori alle corna e la volta che gli saltavi in groppa, e tutto contento lo cavalcavi a casaccio governando briglie di porpora. Sul mezzogiorno in furia l'afa, e alla vampa del sole friggon le chele ricurve del cancro, animale di spiaggia. Il cervo stanco deposita il gran corpo sull'erba del prato per godersi all'ombra degli alberi il fresco, quand'ecco che per distrazione il suo ciparisso con la punta del giavellotto lo trapassa, e come lo vede morente per l'orrida piaga vorrebbe morire anche lui, e quante non gliene dice Febo per consolarlo e convincerlo a non disperarsi troppo, ma quello continua a gemere e chiede agli dèi di poter portare dono supremo il lutto per sempre. È allora che, dissanguate da quel pianto fluviale, le membra han cominciato a virare sul verde, e i capelli che un attimo prima spiovevano giù sulla neve di quella fronte sono diventati una zazzera ispida, dura, che mira con la sua punta sottile il cielo trapunto di stelle. Rantola, il dio disperato, da noi sarai pianto per sempre, e per sempre tu piangerai tutti gli altri insieme a chi soffre. Questo il bosco attirato dal poeta, che adesso è seduto al centro d'un cerchio di belve e d'una turba di uccelli. Dopo aver tentato col pollice le corde dello strumento, al punto di armonizzare la gran varietà delle note in accordi perfetti, Orfeo comincia a cantare così. «Con Giove, madre mia musa, inaugura il nostro poema, che tutto dipende da Giove. Del suo potere spessissimo ho fatto parola, in chiave maestosa ho cantato i giganti e le folgori trionfalmente grandinate sui campi di Flegra. Ora debbo attenermi a un registro più leggero, volendo inneggiare a fanciulli amati da dei e a fanciulle stordite da amori proibiti e punite a dovere della loro cieca libidine. La volta che il re degli dei impazzì per il suo Ganimede, andava trovando qualcuno che lo facesse sentire più Giove di sé, e in nessun altro si sarebbe degnato mai di cambiarsi se non nel volatile abilitato a gestirgli i fulmini. Detto fatto, sotto mentite penne rapisce il fratello di Ilo, e quello a tutt'oggi gli versa il nettare nel bicchiere, con Giunone che muore di rabbia. Anche tu, Giacinto, figliolo di Amicla, Febo ti avrebbe ospitato in cielo se i fati gliene avessero dato il tempo. Sei comunque eterno, concesso, e ogni volta che primavera caccia inverno e l'ariete subentra ai fradici pesci, ogni volta tu resusciti, tu rifiorisci nel verde tra zolla e zolla. Devo dire, nessuno mio padre ha amato tanto, e dal centro del mondo Delfi restava senza Dio tutelare, che lui ti veniva sempre a trovare sull'Eurota e a Sparta sguarnita di mura. della sua lira, delle frecce, non sa più che farsene. Completamente svanito, si presta a tendere reti, a portare a spasso i cani, ad accompagnarti per balze scomodissime, con l'abitudine alimentando la fiamma. Il sole era quasi a metà della corsa, alla stessa distanza dalla notte passata e dalla prossima notte. Si spogliano e tutti e due, luccicanti d'olio d'oliva, sono pronti a misurarsi nel lancio del disco grande. Febo per primo lo bilancia e lo fionda nel cielo a sfondare il bastione di nuvole, in alto, sempre più in alto. Dopo un pezzo, il disco ripiomba a picco contro la crosta della terra, esibendo gli effetti della forza abbinata alla tecnica. Subitissimo, senza riflettere, travolto dal gusto del gioco, il ragazzo del Tenaro corre a recuperarlo, ma quello rimbalza sul duro del mondo e, rischizzando per aria, ti prende in faccia, Giacinto. Impallidisce il ragazzo, impallidisce il dio che sorregge il corpo afflosciato e tenta di rianimarlo, tamponando la brutta ferita, e tenta di trattenere con le erbe l'anima in fuga. Tutta scienza sprecata. La piaga non si rimargina. Se in un giardino ben annaffiato uno pesta una viola, un papavero o un giglio, montato sul suo stelo giallino, quelli appassiscono subito, si piegano languidamente e, non reggendosi, orientano la loro corolla all'ingiù, così, svanite le forze, al morente il viso si spegne e la nuca, pesandosi troppo, gli crolla sopra una spalla. Te ne vai, defraudato tu dell'età fiorita, Giacinto, dice Febo, e quella tua piaga, lo vedo bene, mi accusa, mio strazio, crimine mio, la tua morte è giusto imputarla a questa mia mano, son io che ti ho ammazzato, sono io. Ma che colpa avrei, dopo tutto, a meno che non si possa definire colpa giocare, colpa amare qualcuno. Potessi con la mia vita scontarla e morire con te come merito. Visto però che il destino me lo proibisce, sarai sempre nei miei pensieri, sulle mie labbra, gli accordi della mia cetra, i versi delle mie canzoni diranno di te e tu, fiore mai visto, imiterai questi gemiti. Tempo verrà che un fortissimo eroe cooptato sarà al tuo stesso fiore e il suo nome legherà ai petali stessi. Mentre queste parole Apollo sinceramente diceva, ecco il sangue che, spargendosi, s'era firmato sull'erba, smettere d'essere sangue, ed ecco un fiore splendente più dell'ostro di Tiro, con la forma d'un giglio, se non che lui si colora di porpora, mentre il giglio è d'argento. Ma tanto a Febo non basta, l'omaggio è opera sua. Di sua mano trascrive i lamenti sui petali, infatti sul fiore legge ancora, lettera dopo lettera, un funebre ai ai. E di aver dato alla luce Giacinto, Sparta è fierissima. Gli rende onore ancor oggi e ogni anno, secondo un antico rituale, un solenne corteo apre le feste giacinzie. Sai Amatunta, città metallifera, chiedile quanto è contenta d'esser patria delle propetidi o di quelli che in fronte portavano due corna, chiamati cerasti perciò. Sentirai che ti dice. Quelli avevano davanti alla porta un altare di Giove ospitale. Lo straniero, che ignaro di tutto, vedesse i battenti spruzzati di sangue, poteva pensare che avessero, ah sì, macellato vitelli da latte o pecore del posto. Invece era un ospite che era stato fatto a pezzi, adontata dai riti sacrileghi. Perfino Venere stava per lasciare campagne e città della sua Cipro. Però si chiedeva che male hanno fatto le mie care città questi posti adorati. Che colpa ne hanno? Semmai sia quest'empia gentaglia a pagare il fio con l'esilio, se non con la morte, se non con qualcosa di mezzo. Mi chiedo che ci sia di meglio di una mutazione della persona. Ci pensa e pensandoci gli occhi le cascano sopra le corna e si rende conto che quelle possono restare benissimo e trasforma quei corpi massicci in quelli di torvi giovenchi. Le oscene propetidi, invece, si sono permesse di dire che Venere dea non era. E lei, furibonda, raccontano, per punizione ne fece le prime puttane del mondo. Ma perdono appena il pudore che in faccia il sangue si secca e, senza parere, in un attimo son diventate di sasso.